Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'argomento di oggi è il caso Ibrahimovic, con due avvertenze. La prima è che questo tema di fondo, come sempre, non esclude altri nel corso del programma. La seconda è che il caso Ibrahimovic vale in quanto tale, dato ovviamente la statura del giocatore e il suo peso specifico all'interno dell'Inter, ma vale anche come paradigma per riflettere su come funziona il calcio di oggi, contratti o non contratti. Molti di voi sono già intervenuti via mail, altri lo faranno sia a voce che per iscritto nel corso di questa ora che trascorriamo insieme come sempre, ma per dare un senso logico allo sviluppo dell'argomento e informare chi eventualmente non fosse a conoscenza dei fatti, collegamento con il Corriere della Sera e in particolare con Fabio Monti. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quando comincia il tormentone Ibrahimovic a parer tuo? Ma credo che sia cominciato nello spogliatoio di Manchester, quando il presidente Moratti si era un po' arrabbiato con i giocatori perché non erano stati abbastanza precisi davanti alla porta, e forse quella è stata l'occasione per far finta di arrabbiarsi da parte di Ibrahimovic. E poi lui quattro giorni dopo ha cominciato a tirare fuori la storia del mal di pancia, a spiegare che ma sì, forse rimango, forse vado, vediamo, insomma. Ecco, a volte c'è bisogno di altre motivazioni, si dice sempre così, e qui siamo a metà marzo. Lo spogliatoio è l'ipotesi che tu fai, ne era stata fatta un'altra ambientale, cioè di qualcuno che aveva, come dire, captato in tribuna i malumori del presidente, di Tronchetti Provera e di altri, e li avesse riferiti a Ibra. La sostanza non cambia poi di molto, no? Com'è? No, comunque che il presidente si fosse, cioè avesse detto ai giocatori che non era stato contento della partita di Manchester, diciamo sotto l'aspetto dei gol mancati, balistico. Questo è sicuro, insomma. Allora, questo è l'inizio della, diciamo, dell'avvertenza, che si sviluppa poi attraverso quali tappe principali? Quali tappe principali lo stabiliamo? Facciamo un minimo di suspense, perché sennò ovviamente un giallo come questo non avrebbe senso. Adesso ripeschiamo Fabio Monti. Nel frattempo io ho messo da parte non solo i vostri interventi già arrivati, ma anche alcuni altri, per esempio quello molto interessante di un interista doc come Roberto Vecchioni, che si è esibito ieri sul Corriere della Sera, di cui poi ai non lettori del Corriere della Sera leggerò qualche frammento. Fabio è tornato nel frattempo. Eccoci qua. Dicevo, attraverso quali tappe principali si è poi sviluppato? Cioè, l'escalation è partita da... Abbiamo detto che Manchester è stato l'inizio. Vediamo le tappe dell'escalation. Sì, poi lui è andato avanti piano piano, ha cominciato a dar segni di insofferenza nelle partite, a prendersela con i compagni in campo, perché devo dire che lui dal punto di vista degli allenamenti è stato veramente esemplare, ma non è un modo di dirlo, perché si è allenato sempre in maniera magnifica, dando anche più di quello che si pensava potesse dare, quindi sì. Da questo punto di vista ha dimostrato di essere, come sempre negli anni dell'Inter, un professionista più che esemplare, insomma. Ecco, però è cresciuto sono cresciuti questi suoi atteggiamenti di insofferenza nei confronti dei compagni, fino poi alla partita con il Siena di domenica scorsa. Certo. Mi sembra che fosse l'ultima occasione buona per fare queste cose, insomma, visto il clima che c'era, insomma. Sì, io credo che siano state tutte inopportune. Ricordo per esempio la serata di Napoli, in cui l'Inter ha perso e il suo comportamento era di quelli proprio didascalici, no? Col ditino, la palla me la dovevi dare qui, no? Si vedevano i labiali, niente di violento o di aggressivo, però quello proprio è il primo della classe che dice: ma io mi sono stufato di giocare con questi incapaci. D'altra parte, lui in un derby di due anni fa, l'anno dello scudetto con i punti di Mancini, nel derby di ritorno, siccome il Milan l'aveva segnato e non gli riuscì un paio di dribbling, aveva chiesto il cambio dicendo che gli faceva male la schiena. Insomma, Mancini aveva lasciato in campo, poi lui aveva fatto il gol e aveva fatto segnare a Cruzzi, insomma. Sì. Questo per dire che sta veramente molto male, come domenica scorsa. Sì, quindi insomma, diciamo che qualche capriccio se l'era sempre concesso, però. Certamente no a questa maniera. Poi non era mai arrivato a un gestaccio come quello di Inter-Lazio, questo sì. Credo, no? Esattamente, quello è stato un po', insomma, lo spartiato. anche perché se c'è uno che è sempre stato amato dalla gente è stato Ibrahimovic, insomma. Eppure San Siro, tu lo sai molto meglio di me, ne ha bruciati tanti di campioni. Sì. Secondo te è davvero, cioè, è chiaro che lui, almeno dal mio punto di vista, e poi magari sbaglio, correggimi se sbaglio, lui sta usando i rapporti con la squadra e sta facendo questi teatrini e queste gag, ovviamente per mandare dei messaggi, per disamorare loro, il pubblico, immagino io, per creare i presupposti per andarsene. Com'è l'atteggiamento e come sta evolvendo l'atteggiamento della squadra nei confronti suoi invece? Ma la squadra non è contenta di questa cosa, però se lui dovesse rimanere, insomma, non sarebbe un problema, perché poi, come tu sai sempre meglio di me, sono le vittorie che tengono insieme le squadre, insomma, no? Sì. I gruppi, voglio dire, 3 mesi fa sembrava che il gruppo della Juve fosse il gruppo più armonioso e che andasse più d'accordo d'Europa, e poi dopo si è visto invece che cosa succede, insomma. Certo. Per cui il problema non mi sembra questo, il problema mi sembra nei rapporti con la società, in questo senso che Moratti è stato chiaro, ha detto che si può anche cedere Ibrahimovic se proprio lui non vuole rimanere, eccetera, però soltanto in presenza di una forte offerta, secondo me adeguata al valore del giocatore e anche al suo ingaggio. Ecco, e mi sembra che questo suo voler forzare la mano sia proprio nei confronti della società più che del resto della squadra, insomma. Tanto, voglio dire, lui se dovesse rimanere l'anno prossimo, quando sbaglieranno un passaggio, dirà le stesse cose che ha detto. Certo. Insomma, è fatto finito bene, insomma. Adesso, però mi pare che il tentativo sia nei confronti della società. Sì, adesso arriviamo a questa quantificazione. Mi piaceva invece ancora insistere un attimo su questo aspetto, perché io credo che la spiegazione potrebbe essere la risposta insolitamente dura che lui ha avuto, Ibrahimovic, dalla società fin dall'inizio, cioè fin dal dopo Manchester. Mi pare che sia Moratti che lo stesso Trocchetti Provera abbiano subito detto: beh, insomma, comunque è morto un Papa, se ne fa un altro, si tratta solo di fissare il prezzo del Papa, se non ricordo male. Sì, è questo, insomma. No, perché secondo me loro vogliono evitare che si ripeta una vicenda come quella di Ronaldo, anche se poi la cessione non è stata svantaggiosa per l'Inter in termini economici, insomma, però fatta all'ultima ora, l'ultimo giorno, con tutto quel caos che c'era stato. Ecco, se proprio non lo si può trattenere, che sia una trattativa vera e una trattativa fatta bene, insomma. Mancano un paio di tasselli ancora per completare del tutto il puzzle, almeno al momento, a oggi 20 maggio. Il primo è qual è il prezzo che la società intende chiedere ad un eventuale acquirente? Guarda, Moratti il 23 di marzo aveva parlato al margine dell'Assemblea Federale a Roma di 100 milioni, insomma, ecco, che poi è una cifra veramente fortissima, eccetera, che poi possa essere ridotta, ma non di troppo, insomma. D'altra parte, Ibrahimovic prende 1 milione di euro netti al mese, quindi il suo valore mi sembra che sia dimostrato ampiamente, e venga dimostrato ogni mese. Quello che pensa la società di lui mi sembra che lo dimostri ogni 27 del mese. Sì, questo non c'è dubbio. Ultima davvero, acquirenti reali, non tanto potenziali, cioè ha mercato un giocatore come Ibrahimovic a quel prezzo? Non che Ibrahimovic sia un giocatore che non ha mercato, ci mancherebbe altro, però è chiaro che a quel prezzo una società ci deve riflettere. Secondo te, realisticamente, chi può essere a volere Ibrahimovic in giro per il mondo? Io non capisco bene questa cosa del Real, cioè questo presidente che sta per tornare, eccetera, se è disponibile a fare un colpo del genere, anche se ho sempre sentito parlare di altri giocatori, a cominciare da Kakà, da parte di Florentino Perez nel caso in cui dovesse andare via. Oggi pare che si sia dimesso anche Mijatovic, sì. e quindi stiamo a vedere. So che Ibrahimovic, perché l'ha detto, il suo cuore è per il Barcellona, insomma, sì. Perché lui è convinto che il Barcellona sia la squadra col maggior numero di possibilità di vincere la Champions League anche il prossimo anno. E lui insomma a questo mira. Onestamente, un pivot, diciamo, un playmaker avanzato di quella stazza e di quella capacità di palleggio, avendo intorno Messi, Iniesta e gente così, non sarebbe malissimo il progetto di squadra. No, assolutamente. Anche se il Barcellona è una squadra molto disciplinata tatticamente. Sì. Lui è un giocatore, secondo me, con cui secondo me si fa fatica a giocare assieme. Questo è vero. Restando che è bravissimo. Questo è vero. È bravissimo anche poco, insomma. Però mi sembra che si faccia fatica a giocare con lui vicino. Questo è oggettivamente vero. Fabio, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero per questo collegamento e per aver messo a fuoco del tutto il personaggio Ibrahimovic, che si conosce, ma soprattutto gli sviluppi, le tappe del caso. Arriva da Parigi, proprio appena battuta l'agenzia, la notizia che il tribunale ordinario ha respinto il ricorso della Ferrari relativo al cambiamento delle regole in Formula 1, cioè il tetto ai budget, a partire dal prossimo anno. E se nel Barcellona il pallone non glielo passa Messi, che fa? Saluta anche lì, domanda Dario. Domenica ero a San Siro, scrive Paolo da Prato, Ibra è riuscito a far arrabbiare anche capitan Zanetti, puntiamo su Balotelli e Milito e lasciamolo andare a curarsi in mal di pancia. In Spagna ci sono ottimi medici, la colpa è di Mourinho che gli ha dato corda, scrive Frank. Mentre Fabri da Ornago scrive: noi tifiamo Inter al di sopra di qualunque presunto fuori classe o giocoliere, e aggiunge poi una frase riferita a quel gesto non esattamente oxfordiano rivolto al pubblico in occasione della partita con la Lazio, dicendo vada da altre parti a farsi trattare come aveva provato a indicare. Ho molti altri pareri scritti, ce n'è uno che mi è molto piaciuto, che era un passaggio che non riesco a rintracciare, e mi spiace non citare la fonte, era veramente una bella battuta, che era: non parliamo di bandiere, per la verità, credo che Ibrahimovic al massimo possa essere un gagliardetto, mi sembra carino, un gagliardetto a scadenza anche, no? Di quelli che ha la data di scadenza. Vi dicevo anche di Roberto Vecchioni e di questo articolo che ha scritto ieri sul Corriere della Sera, un po' alla sua maniera. Sentiamo magari prima un paio di pareri di ascoltatori che hanno chiamato, si sono già prenotati all'800 24 0024. Ivan, per esempio, dalla provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ma innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Poi le volevo dire in merito a Ibrahimovic, allora io sono tifoso juventino, l'ho avuto in squadra tra virgolette per l'ho avuto d'anni. In squadra non è male, sì. Sì. Quindi volevo dire che come calciatore non si discute, indubbiamente uno dei top player a livello europeo e anche mondiale. Io vedo in lui come di una persona presente nelle partite tra ragazzini, dove praticamente c'è il calciatore che è nettamente più forte degli altri, no? Ed è come se lui volesse dimostrare a tutti anche che è il calciatore più forte dell'ambientino, e trovare appunto la squadra che possa metterlo in condizione di far eccellere le sue doti. E secondo me l'Inter, a mio parere, a parte lui, non può permetterglielo, perché se noi pensiamo che quest'anno non ci fosse stato Ibrahimovic nell'Inter, sicuramente l'Inter non avrebbe fatto il campionato che ha fatto. La ringrazio e l'ascolto per grazie tanti. A lei, ma è vero, ha proprio di questi atteggiamenti qua, cioè gli atteggiamenti da professore che ci tiene a fare, insomma, che sottolinea gli errori altrui, le manchevolezze altrui, i piccoli cedimenti, e questo è a parer mio del tutto censurabile, e lei ha ragione, non può durare, lo diceva benissimo Fabio Monti prima, non può durare da un punto di vista ambientale, perché glielo concedi una volta, due, tre, e poi si rompe tutto, perché è evidente che non puoi sopportare uno che fa il fenomeno in campo, indipendentemente poi dal suo rendimento, che ti fa sottolineare i tuoi errori o comunque quello che non ti è riuscito. Però è anche vero che io proverei a spostare il discorso su Ibrahimovic, ma anche al di là di Ibrahimovic, e cioè sul buon diritto, a parer mio, che nel calcio di oggi un giocatore ha di cercare nuove avventure. Cioè è inutile che noi continuiamo a restare ancorati al calcio di Giuliano, bandiera del Napoli, o del povero Bulgarelli, bandiera del Bologna, e poi avanti con Rivera, eccetera. Le eccezioni ci sono ancora oggi, perché basta pensare a Paolo Maldini, a Totti, a Del Piero, ma sono per l'appunto eccezioni, non sono più regole. E io credo che se un giocatore ha 28 anni, e cioè nel pieno della maturità psicofisica come oggi è Ibrahimovic, dopo 5 scudetti consecutivi vinti in Italia, ha voglia di cimentarsi con qualcosa di un po' più impegnativo, io credo che sia abbastanza comprensibile questo. È sbagliato arrivarci nel modo in cui sta provando ad arrivarci lui, come comportamenti, ma come scelta io dico che si può anche condividere. Marco da Carrara scrive: lo sapevo che era barcellonista fin da bambino Ibrahimovic, e si riferisce a quella frase di Ibra di un paio d'anni fa, no, di 3 anni fa, in cui disse: da piccolo tifavo per l'Inter, no, e questo subito dopo essere partito dalla Juventus. Ha ragione Marco, insomma, ci sono sempre delle vocazioni precoci di tifo, no, di questi poveri ragazzi che ogni tanto devono confidarsi, no? Perché non riescono più a tenere dentro questo sentimento che li soffoca addirittura, tanto è prorompente. Claudio, Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dica. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che se un giocatore decide di andare via bisogna per forza lasciarlo andare via. Nel senso, un giocatore quando prende di 12 milioni di euro netti all'anno e ha un contratto fino al 2012-2013, giustamente, se riesce a trovare un accordo con la società e chiaramente se poi viene pagato anche in maniera giusta, per me può andare via domani mattina, non c'è nessun problema. Cioè uno che si comporta verso i tifosi, verso i compagni in quella maniera, per me è già perso. Però io faccio una proposta proprio, diciamo così, forse inaccettabile a qualcuno. Io sono disposto, se fossi Moratti, che penso sia uno dei pochi che può farlo, cioè o va via alle condizioni giuste, altrimenti va in tribuna con i suoi 12 milioni di euro, ma sta in tribuna fino a quando decidiamo noi come società. Sono disposto a fare anche una colletta per questa roba. Sì, io credo che queste siano le posizioni oltranziste che non hanno, abbia pazienza, ma secondo me non hanno una gran logica e non hanno un gran senso, perché come in tutte le cose si tratta, guardi che anche perché c'è secondo me un altro equivoco di fondo, e cioè il fatto che un contratto molto lungo sia nell'interesse del giocatore, è nell'interesse del giocatore, ma è altrettanto nell'interesse della società. Ormai l'abbiamo capito, i primi tempi si poteva cadere in questo equivoco, no? Dice: ma come, c'è ancora 5 anni di contratto e tratta per andare via oppure vuole andare via? In realtà questa è la formula che tutela sì il giocatore che firma, ma tutela soprattutto la società, che ha diritto in questa maniera, ritorna ad avere il vincolo, no? Sia pure sotto altre forme, di una volta, e quindi può fare il prezzo del giocatore. Io non credo che sia che un contratto lungo sia un danno per la società, cioè sia una cosa che deve rispettare, un interesse solo del giocatore, è un interesse anche della società, e come? Perché sa di poter trattare la cessione di quel giocatore e di poter avere l'ultima parola, compresa, come dice lei, quella di mettere il giocatore in tribuna. Fino adesso Moratti non l'ha ancora detto, poi magari un giorno o l'altro Può darsi che lo dica, e secondo me nel caso lo dicesse avrebbe la stessa valenza di quando ha detto: se ero al campo avrei ritirato la squadra, combinazione non c'era, avrei voluto vederlo al campo se ritirava la squadra, in un'altra circostanza assai più dolorosa di questa di cui stiamo parlando oggi. Da Milano, Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo dire due cose, una rispetto a tutti i tifosi juventini, milanisti e altro, che continuano a dire che Ibrahimovic è insostituibile, che Ibrahimovic ha fatto vincere l'Inter, che senza Ibrahimovic, ho sentito dire che l'Inter probabilmente non avrebbe fatto il campionato che ha fatto. Io sono di un'altra idea, le spiego perché. Basterebbe guardare Marco Di Vaio. Quanti gol ha fatto Marco Di Vaio e quanti gol ha preso la sua squadra? Questo per dire che un giocatore è importante ed è anche fondamentale se è così bravo come Ibrahimovic, ma non è tutto. All'Inter ci sono dei giocatori straordinari che non sono neanche tenuti conto. Mi riferisco a Zanetti, mi riferisco a Maicon, mi riferisco a Santon, possiamo guardare anche a centrocampo, per esempio. Per cui voglio dire, non soffermiamoci troppo su Ibrahimovic. Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, un fenomeno, che però evidentemente non ha delle doti dal punto di vista umano che secondo me sono in linea con gli altri fenomeni che abbiamo all'Inter, quindi il recinto è aperto, che vada pure via, che tanto, voglio dire, con i soldi di Ibrahimovic ne prendiamo di grandi campioni, almeno sì, un paio. Bisogna vedere poi quale sarà il rendimento di questi campioni, perché a me sembra che il rendimento di Ibra nell'Inter sia stato altissimo. Lei fa il caso di Di Vaio, non basta un capocannoniere per escludere, che, cioè per garantire a una squadra di non lottare per la salvezza, perché poi Bologna deve ancora retrocedere, semmai, eventualmente. Però capisco quel tipo di paradosso. Dall'altra parte è anche vero che chi gioca con Ibra da 6 anni a questa parte vince lo scudetto, eh? Un Ajax, 2 Juventus e 3 Inter. Sicché Simone da Padova che scrive: da milanista dico meno male che quella volta l'Inter ce lo ha scippato. Lo trovo abbastanza ridicolo come messaggio, per 2 ragioni. La prima è che non l'ha scippato, l'ha comprato, perché gli scippi sono altri, la prima. La seconda è che meno male entro certi limiti, perché io invece penso che se quest'anno Ibrahimovic giocava nel Milan, provi a dire chi vinceva il campionato, con tutto rispetto per gli altri, per gli altri interisti che ha citato lei, a cominciare da Maicon. Secondo me da Maicon da cambiasse dal portiere, poi sul resto non esagererei con gli aggettivi, ma negare che Ibra in tutto questo abbia avuto un ruolo decisivo, entro i confini sempre, perché questo è un altro discorso che per il momento non è ancora venuto fuori, la differenza di peso specifico tra l'Ibrahimovic da campionato e quello da Coppa. I rappresentanti della Ferrari, presenti a Parigi a Palazzo di Giustizia, non hanno commentato la sentenza. Nel dispositivo l'Alta Corte parigina respinge il ricorso e convalida di fatto il nuovo regolamento della Formula 1. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, Garantini. Dica. Io vorrei portare un po' avanti. Ammettiamo che Ibra vada al Barcellona, no? Sì. Alle prime partite, sempre facendo un'ipotesi, Messi gli sbaglia un passaggio. Sì. Vorrei vedere se Ibra fa la stessa reazione nei confronti di Messi. Allora, no, ma mi scusi un attimo, sì. Ma guardi che gli erano sbagliati i passaggi qua i primi 2 anni all'Inter, sempre quello, e non ha mai fatto una piega. Mi immagino la scena, perché Messi è molto più educato, molto più osservante delle regole, diciamo. Mi immagino la scena allo spogliatoio che Messi gli dica: ascolta, io ho 4 anni in meno di te, ho fatto quasi una dozzina di più di gol di te in Champions League, ho fatto qualche gol in più di te in nazionale, quindi per favore, prima di fare certe scene, cerchiamo di darci una regolata. Sì, Luciano, pare che Messi di anni ne ha 7 in meno rispetto a Ibra, per fortuna sua, però non credo che lei ci prefigura un Barcellona come fosse l'asilo Mariuccia, non mi risulta che sia così. Il calcio professionistico è un pochino diverso da come lo racconta lei. Da Cuneo, Gianni, buongiorno. Da Cuneo Gianni era collegato e adesso non lo è. A proposito di Ibrahimovic, scrive Armando Russo da Taranto: il mio pensiero è che da tifoso gli sarò sempre grato per quello che ha fatto per l'Inter, ma è anche vero che lui stesso ne ha goduti i benefici, non soltanto economici, anche per un'impostazione di squadra tutta dedita a lui. È arrivato il momento delle scelte coraggiose, consapevoli del fatto che qualsiasi scelta si faccia, se si guadagnerà qualcosa, sicuramente qualcos'altro si perderà, è verissimo. Filippo Ferrara invece scrive: domenica sera persino mia figlia, che ha 15 anni, non segue il calcio, quando Ibrahim ci ha segnato mi ha chiesto: ma papà, ma perché ma questo calciatore non è quello che aveva chiesto di uscire perché si era infortunato? Ma allora era una scusa. A questi signori viene concesso troppo e spesso sono anche giustificati per fatti anche più gravi. Vendere Ibra la soluzione più intelligente, scrive Roberto Corti, ovviamente per un bel pacco di quattrini. Non ho mai creduto alle cosiddette bandiere, che alla fine dei conti si rivelano spesso vere e proprie palle al piede a fine carriera, se la mente del giocatore non capisce che il fisico non è più quello di 10-15 anni prima. Non è il caso di Ibrahimovic, che ha detto dopo le dichiarazioni d'amore dei primi tempi, appunto, che lui era interista, non, forse prima di essere concepito addirittura, non soltanto da bambino, in tempi più recenti, per prepararsi il terreno, ha detto che lui non si legherà mai. Anzi, abbiamo forse un frammentino brevissimo in cui si sente Ibrahimovic dire che non è il tipo lui da giurare fedeltà eterna ad una squadra. Sentiamo. Però non sono un uomo che sta in un club tutta la vita. C'è sintetico, più o meno certamente ha sprecato meno fiato per questo di quanto non ne sprechi per spiegare a Balotelli dove doveva scattare, piuttosto che doveva mettergli la palla in profondità quando non tutto funziona. Ibra non sarà mai la bandiera di nessun club, riprendo la lettura di questa mail di Roberto Corti, ed è giusto così, il suo carattere lo porta a cercare soldi e fortune in squadre diverse, misurarsi con altre grandi, con altre sfide da grande adrenalina, e lo capisco molto bene. Quello che mi delude è il suo comportamento puerile, in fondo ridicolo, di questi tempi. E questo credo che sia la sintesi, almeno è quella che io condivido, parlando di questo caso, di questo genere di atteggiamenti, che Ibrahimovic poi ha elevato all'ennesima potenza, ma che insomma nei finali di stagione ogni tanto prima o poi saltano fuori. Tappa interessante anche oggi quella del Giro d'Italia, che è partita da Torino e sta dirigendosi verso Arenzano, 214 chilometri, percorso nervoso, adatto a fughe da lontano, mi scrivono quelli che si intendono di ciclismo, cosa che non appartiene molto al mio repertorio. La sigla. Voci dal Giro. La voce da giro oggi non può essere che quella di Danilo Di Luca, che rivisita, ripercorre l'impresa di ieri, che ha fatto un po' da spartiacque tra la prima parte del giro e la seconda, e l'ha segnata in maniera molto significativa. Ho recuperato bene, tappa lunga 260 km, un finale molto nervoso da Liegi-Bastogliegi, quindi diciamo che ho fatto una bellissima azione, ma soprattutto perché il percorso era adatto alle mie caratteristiche. Ma oggi ha fatto un numero eccezionale anche Stefano. A noi non interessava andarlo a prendere, poi nel finale, prima hanno tirato i baluard, poi nel finale la Liquigas, e siamo andati a riprenderlo. Mi dispiace per lui. Per me bastava fare l'azione che ho fatto, cercare di guadagnare qualche secondo importante, e infatti l'ho attaccato in discesa, e poi lo strappo finale sono riuscito anche a staccare gli altri tre miei compagni di fuga, quindi è andata molto bene. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro. Via Sonetti che arriva al Brescia, domanda Paolo da Brescia per l'appunto. È già arrivato Cavasin, era un'indiscrezione circolata già ieri, anzi era praticamente certa, però è stata ufficializzata soltanto stamane. Alberto Cavasin è un ritorno, perché ha guidato Brescia nel 2004-2005. Poi ci sono altre notizie, altri commenti, però vi avevo lasciato prima con questa anticipazione di Roberto Vecchioni. Lo accompagneremo alla stazione cantandogli addio bocca di rosa, ha scritto ieri a proposito di Ibra. Qualche frammento, ma basta, piantiamola con questa farsa del cuore dell'attaccamento ai colori e prendiamo le ste distanze dai fiorentini inviperiti per Baggio, dai gobbi per Zidane e da altre scene patetiche, commedia dell'arte pura quella per Cacà. Distinguiamoci una buona volta, facciamoci due belle risate sopra e sbattiamocene i maroni, scrive sempre Vecchioni a proposito di Ibra. Ogni volta che passo per Appiano mi sono tutti intorno, Cordoba, Toldo, Materazzi, mio amico Saverio. Ibra non mi ha mai salutato, mi passa davanti come fossi trasparente e io non me lo filo per niente, come fosse a mia volta una gara di resistenza. Un giorno o l'altro gli salto davanti nudo con l'impermeabile aperto e voglio vedere che fa. E poi il finale, lo accompagneremo tutti in corteo all'aereo per Barcellona, Madrid o Londra, tenendo ben sollevato un cartello giallo con una scritta nera: addio Zlatan, con te se ne parte la primavera, e ringraziandolo al profondo del cuore, perché anche lui come bocca di rosa non può fare a meno di dare la sua specie d'amore a tutti e di rendere felici tutti. Beh, insomma, non male. Potrebbe andare al Manchester, secondo un ascoltatore, si chiama Paolo Montecchi. Mi sembra un bel ragionamento questo, tutto sommato. Ibrahimovic andrà al Manchester United perché Cristiano Ronaldo andrà al Real Madrid. Il Barcellona è solo fumo negli occhi, scrive Paolo Montecchi. Ibra ha voglia di giocare in un altro campionato, il problema è solo questo. Peccato che lo evidenzi nel suo modo di persona viziata e arrogante. Questo è firmato Paolo Modena, e mi pare che questi ultimi due messaggi estremamente sintetici sintetizzino per l'appunto al meglio questa commedia. Angelo da Lodi, buongiorno. Buongiorno. Niente, un po' quello che volevo dire era quello che diceva Vecchione, nel senso che io ritengo, scherzo, la via dall'Inter mi dispiace, però ritengo un grandissimo professionista, lui è pagato, fa la sua parte che l'ha fatta fino in fondo, che dia fastidio o no, lui la sua parte in campo l'ha sempre fatta. Non mi ricordo tanto un grande campione estero che si è innamorato della sua società, non mi viene difficile ricordarlo, però per quello che ha pagato la sua parte l'ha fatta. Io ritengo che lui voglia vincere il pallone d'oro, con la Svezia impossibile vincere un europeo, un mondiale, e se lo può scordare. L'unica è una grande società. Lui pensa che l'Inter non sia ancora in grado di vincere la Coppa Campioni, e se non vince la Coppa Campioni il pallone d'oro non glielo danno. Lui ritiene che Barcellona o Manchester siano davanti a noi, e tra l'altro anche Mourinho lo dice, questo io non sono tanto d'accordo, anche Mourinho ritiene l'Inter come quarta forza, perché dice che non siamo ancora a livello di Manchester, Chelsea e Barcellona. Quindi io tutto sommato lo capisco anche Ibrahimo, dice, a me l'importante è che se resta all'Inter, come penso che faccia, che è un grande professionista, contento o non contento, la sua parte penso che la faccia uguale, se va via, poi ringrazio per quello che ci ha dato e pazienza. Perfetto, mi sembra equilibrato, insomma, anche questo intervento, questo modo di accettare una scelta di un professionista giramondo, non dimentichiamolo mai. Gianfranco, Napoli, buongiorno. Salve, buonasera, volevo solo fare un rapido parallelo tra Ibrahimovic e Maradona, nel senso che ho giocato in tutte le giovanili del Napoli, ho assistito a tutti gli allenamenti di Maradona. Nei primi anni Maradona giocava con Celestini, con Puzzone, con Sola, non l'ho mai visto dare un'occhiataccia ai suoi compagni, con Bruscolotti, per un passaggio sbagliato. Ibrahimovic è un grande giocatore, ma i campioni hanno un altro valore morale. Grazie, vi aspetto. Sì, sì, però diciamo grosso modo la stessa cosa di prima. Fino a quando lui è stato contento di stare all'Inter, non ha mai dato un'occhiataccia, non ha mai rimproverato un compagno, se non quello che accade in campo normalmente, e che accade, e ho visto accadere a Barcellona, a Manchester, dovunque. Perché non è che Cristiano Ronaldo sia così felice quando lui scatta a destra e la palla gli arriva a sinistra, eccetera, eccetera. Questo vale per tutti, adesso ci mancherebbe altro. Maradona non ha mai voluto andare via da Napoli e quindi non ha mai avuto la necessità di creare i presupposti di un distacco, come Ibrahimovic sta facendo qua. Gianluca Pisa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io credo che il mio intervento sia stato parzialmente così anticipato dal signore che ha parlato, non quello di Napoli, quello vabbè, di insomma, prima, com'è? Perché comunque anch'io, ecco, da interista non posso che ringraziare Ibrahimovic per quello che ha fatto in questi anni. Oltretutto credo che abbia dimostrato molto professionismo, poi gli aspetti caratteriali, per quanto opinabili, insomma, fanno parte della personalità. E riguardo alla situazione del momento, io provo anche a interpretarla un pochino da bastian contrario, ma come una richiesta di essere supportato perlomeno da un altro giocatore del suo livello per potersi anche un pochino sentire. Non credo, Gianluca, non credo che sia questo, sinceramente, non mi sembra, non annacquiamola troppo adesso, li sta mandando a quel paese tutti uno dopo l'altro in maniera scientifica e sistematica, sempre in favore di telecamera, per essere ben certo che il messaggio venga trasmesso, no? E quindi no, non sta chiedendo di potenziare la squadra, sta creando i presupposti per l'appunto, anzi ormai li ha ampiamente creati per cambiare aria, poi si vedrà come andrà a finire. Intanto Messi ha rifiutato un'offerta del Manchester City, secondo gli spagnoli, di 10 milioni di euro netti l'anno per 4 anni, che sarebbero pur sempre 2 di meno di quello che guadagna Ibrahimovic all'Inter. E va bene, e mentre cominciano a essere rilanciate in Inghilterra le polemiche nei confronti della scelta romana di finale di Champions League, che ci sono già state in passato, ma che appunto a 7 giorni data dalla finale, insomma, vengono rilanciate. Cresce la tensione, leggo questa agenzia da Londra, arrivata da poco, cresce la tensione in vista della finale di Roma. E tra i tifosi del Manchester United resta alta la paura di possibili agguati da parte dei tifosi romanisti. Preoccupazione condivisa dal Times, che mesi fa aveva lanciato una sottoscrizione online per chiedere all'UEFA di spostare la sede della finale di Champions League. Ora è la volta del Ministero degli Esteri, niente meno, che ha pubblicato un elenco di consigli per gli oltre 10.000 tifosi dei Red Devils attesi in Italia, sprovvisti di biglietto. La polizia di Manchester sta collaborando con le autorità italiane per garantire la massima cooperazione nell'individuare ed isolare gli elementi potenzialmente più pericolosi. Tra le indicazioni di sicurezza ricevute dai tifosi, quello di evitare la metropolitana nelle zone periferiche poco illuminate, ma anche alcune strade del centro senza via di fuga. Stefano ha chiamato la provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho 34 anni, quindi mi ricordo quando avevo circa 10 anni, alla metà degli anni 80, Maradona e gli altri campioni che giocavano nel campionato italiano. Non andavano via semplicemente, secondo me, perché la situazione era diversa. Gli equilibri economici e tecnici si sono spostati in questo momento su altri campionati. Non abbiamo la controprova che gli stessi Maradona o magari Platini, in una situazione di mercato come quella attuale, magari sarebbero andati via anche nel fiore della loro nel massimo del loro agonismo, ecco. Sì, sì, è una possibilità, infatti. Platini se ne sarebbe andato via in maniera elegante, nel senso che lui tanto quando gli sbandavano un passaggio li mandava già a quel paese allora, ma li mandava a quel paese col sorriso sulle labbra e cercando di non farsi inquadrare. È vero che c'erano meno telecamere di oggi, ma insomma, diciamo che col suo humor questi anche i suoi malumori li gestiva in tutt'altra maniera. Si stia dando da fare in queste ore su per quanto riguarda il calcio italiano. Ancelotti ormai è del Chelsea e soltanto Filippo Galli, però il suo staff, lo seguirà a Stamford Bridge, perché il Chelsea vuole confermare per esempio Ray Wilkins, che tra l'altro è a sua volta un ex milanista e anche l'allenatore dei portieri. E mentre c'è la dichiarazione di Cannavaro a Marca, mi pare che devi stirli uno al giorno adesso, no? Come marcia di avvicinamento verso la Juventus. So che sarà un po' complicato tornare a Torino, ha detto Cannavaro al Marca, perché i tifosi sono irritati per la mia partenza quando la squadra è in B, e li capisco, ma voglio che sappiano che torno con la voglia di lavorare e di fare qualcosa di grande. Interrogato su chi vorrebbe portare con sé la Juve da Madrid, ha risposto Mamadou Diarra. E che allenatore vedrebbe alla Juve? Gli ha chiesto ancora Marca e Cannavaro ha risposto: mi piace molto Mourinho, ha un buon rapporto con i tifosi e si prende sempre la responsabilità per i giocatori. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 maggio 1992. A Wembley, il sogno blucerchiato di conquistare la Coppa dei Campioni si infrange dopo 21 minuti di tempi supplementari, quando il Barcellona sblocca il risultato con una punizione potente e precisa dell'olandese Ronald Koeman. Una beffa per Vialli, Mancini e compagni, che avevano tenuto testa agli uomini di Cruyff sfiorando in più occasioni il gol. Si chiude così un ciclo straordinario per la Sampdoria, che l'anno precedente aveva conquistato il primo scudetto della sua storia. La finale di Londra è il capolinea dell'avventura in blu cerchiato per il tecnico Vujadin Boskov e per Gianluca Vialli, che con la maglia della Juventus riuscirà a conquistare, 4 anni dopo, quella Coppa dei Campioni sfuggitagli per un soffio a Wembley. Il giorno della Sampdoria, il giorno più amaro, più glorioso, perché una finale di Coppa Campioni non la giocano tutti, e più amaro per l'esito. Veramente a un soffio dal traguardo. Franco da Como, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per l'intervento come sempre. Ma due considerazioni, una di tipo tecnica, avendo un po' giocato a pallone, per me Ibra è stato quella sicurezza che mancava a questa squadra. Io, per quanto juventino, seguivo l'Inter nella follia di comprare sempre giocatori, tante risorse anche sportive, non avere risultati. Volevo sentire la sua opinione. Mi sembra che Ibra è quell'uomo che ti dice quando stai perdendo può recuperare il risultato. E poi volevo fare una provocazione. Io sono convinto, volevo sapere la sua opinione, che oggi, se dovessero dire che Ibra torna alla Juventus, i tifosi andrebbero a prenderlo a Milano e lo osannerebbero e festeggiandolo allo stadio, perché così va il calcio. L'ascolto per radio, buona giornata. Ho pochi dubbi in proposito. Alla fine si faranno andare bene anche Cannavaro, i tifosi della Juventus, quindi si immagini Ibrahimovic, che forse qualcosina più di Cannavaro oggi vale. Ma ho anche dei messaggi qua nel display che di juventini che dicono speriamo se ne vada, che almeno non l'avremo più sotto gli occhi e soffriremo un po' di meno. Qualcun altro invece che dice ma è un pensierino tornare da noi, sarebbe impossibile. Ma io penso proprio che sia impossibile. Quanto alla valenza tecnica e tattica del giocatore, ma non è in discussione, infatti è quello che si carica in spalle la squadra quando qualcosa non funziona, è quello che ti dà il valore aggiunto quando la squadra funziona, ma è quello che soprattutto se la carica in spalla nelle giornate storte ed è in grado di risolvere le situazioni. Sono giocatori dal peso inestimabile, secondo me. in una squadra. Con questa stranissima distinzione tra Italia e Europa, che lo è nel calcio italiano, non lo è in quello europeo. E dico stranissima perché questa considerazione non comporta il salto, cioè non comprende il salto di qualità che occorre per essere protagonisti, faccio per dire, contro la Lazio, contro il Napoli, senza offesa, e poi invece ti areni contro il Manchester o contro il Barcellona. No, perché lui non la becca mai, o comunque la becca poco, anche contro l'Olympiacos, contro squadre inferiori, no? Proprio come a sapere, sembra quasi un blocco mentale rispetto alla dimensione internazionale. Roberto, provincia di Asti, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garantini. Dica. Quando posso l'ascolto sempre per radio. Mi scusi, non è che Ibrahimovic rispecchia un po' l'indole del suo popolo, cioè popolo itinerante che dopo 2 o 3 anni si stanca di restare nello stesso posto e vada via indipendentemente dalla questione economica? Penso che sia possibilissimo. Ibrahimovic è uno zingaro, senza offesa, cioè uno zingaro per caratteristiche, credo che lo abbia detto lui stesso, lo abbia rivendicato, e anche con una certa fierezza, no? E non c'è nulla di male in tutto ciò. Noi oggi abbiamo talmente inquinato la società e i rapporti che certe parole sono diventate magari offensive. Io non so se oggi la parola zingaro abbia un significato offensivo, mi auguro di no, ma se ce l'avesse sarebbe un significato di nuovo conio, perché zingaro in passato non ha mai rappresentato niente di negativo, era la caratteristica di un popolo itinerante, di un popolo migrante, di un popolo che non aveva radici e non riusciva, non voleva o non poteva, a seconda delle situazioni storiche, metterle da alcuna parte. Ibra non mi pare abbia questa grande voglia di radici a sua volta, e forse anche in questo c'è una parte di fascino, secondo me, anche perché, ripeto, il calcio delle bandiere è ampiamente tramontato, e poi non si può pretendere cioè nessuna tifoseria può pretendere di portar via le bandiere a tutte le altre squadre, no, e poi invece tenersi le proprie. E ti capiterà anche a te, no, cara Inter, o cara Juve, o caro Milan, o caro Manchester, che un giorno o l'altro quello che pensavi diventasse la bandiera te lo zampano, esattamente come tu le hai zampate e continui a zamparne in giro. Penso a Milito, l'ultimo, per esempio. È il calcio di oggi questo. Domenico Matera, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione innanzitutto. A proposito di bandiere, io volevo parlare di Maldini, che domenica dalla zia al calcio, e per me è malinconia, perché quando lui iniziava a giocare io facevo il primo liceo, passato l'università sotto eccetera, ma le volevo chiedere una cosa: non è stato un po' sopravvalutato come carriera? La dico da milanista. Cioè, secondo me lui ha smesso di giocare al calcio quando è diventato difensore centrale, cioè alla fine degli anni 90, e l'apoteosi l'ha avuto nel Mondiale del 94, dopodiché ha tirato avanti per mettere qualche record. Sono un po' duro, però secondo me è così. Secondo me no, poi il declino di queste ultime stagioni è abbastanza evidente, la sua carriera a parer mio è durata troppo, e l'ho già detto anche in altre circostanze, però insomma, dipende da quanto, no? Se si parla di troppo, insomma, l'epoca che dice lei, insomma, la durata che da lei all'indietro mi sembra un po' eccessiva. Antonio, Roma, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Mm-hmm. Volevo dire una cosa: io sono un tifoso interista e ho apprezzato Ibrahimovic anche per come si è sempre impegnato, con la serietà anche in allenamento. Perché Ibrahimovic, se vogliamo, è uno che si allena con grande serietà, che non manca le partite, quando è in condizione di giocare, diciamo. Però, se lui dovesse andare via, io penso che ne beneficerebbe Balotelli, perché so che Balotelli è molto giovane e che probabilmente è ancora acerbo, quantomeno psicologicamente. Però penso che la vicinanza di Ibrahimovic in questo momento lo stia un po' frustrando. E io penso che un Balotelli e un'acqua fresca potrebbero dare una nuova verba all'attacco, potrebbe essere una nuova strada per l'Inter. Auguri, io dico auguri vivissimi, perché venire dopo Ibrahimovic, per carità, acqua fresca, grande stima, Balotelli, grandi potenzialità, però bisogna innescarli, bisogna creargli delle situazioni da gol. Ibra se le creava da solo, mi risulta, la più parte delle volte, insomma. Auguri, se questo può essere la speranza vostra. Sicuramente l'avrete già detto, ma perché, domanda Mino da Bergamo, non si giocano più in contemporanea alle ultime giornate di campionato? Perché le hanno ridotte a due, cioè finalmente la domenica prossima si gioca tutto in contemporanea, a parte Lazio-Regina stasera, che è un anticipo dovuto alla disponibilità richiesta dalla UEFA per la finale di Coppa Campioni. 7 giorni prima vogliono lo stadio e quindi... Ma da domenica le ultime due si giocano così, era sempre state 4, adesso 2, un altro anno sarà 1, tra un po' non ci sarà più questa simpatica tradizione. Un cartellino giallo mi arriva da Fabio Cantadori perché ho sforato di una 50ina di secondi, mi dispiace, grazie della compagnia, grazie a Fabio per l'appunto in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.